La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con La storia e la memoria. Nella prima parte di questa puntata, Dino Pesole dedica il suo approfondimento alla zona del Medio Oriente, recentemente interessata da un sanguinoso conflitto fra israeliani e palestinesi. Luisa Morgantini, vicepresidente del Parlamento europeo, ci racconterà dei suoi numerosi viaggi all'interno dei territori occupati. Nella seconda parte vi proponiamo, in collaborazione con History Channel, un radiodocumentario sull'incredibile storia del Dresden. Si tratta dell'unico incrociatore tedesco sopravvissuto alla furia inglese durante la battaglia delle Falkland nel 1914. Ma ora la parola a Dino Pesole. Il conflitto israelo-palestinese sta vivendo una nuova gravissima escalation. Le speranze di pace alimentate nel corso del 2008 dagli esiti della conferenza di Annapolis hanno ceduto il passo, già dalla fine dell'anno, alla rottura della tregua e alla ripresa dei combattimenti, come sappiamo, nella striscia di Gaza. Israele contro Hamas, prima con i razzi, poi con l'impiego delle truppe di terra. Palestinesi e israeliani, due popoli da 60 anni in guerra con alterne vicende, speranze di pace che si alternano appunto a una situazione di fatto di conflitto permanente. Il 29 novembre 1947 l'Assemblea Generale dell'ONU vota la famosa risoluzione numero 181 con cui dispone la divisione della Palestina in due stati, uno arabo, l'altro ebraico. La risoluzione viene approvata con 33 voti a favore, 13 contrari e 10 astenuti. Gli stati arabi, Egitto, Siria, Transgiordania, Libano, Iraq, Arabia Saudita e Yemen, si oppongono duramente a questo piano, che avrebbe assegnato agli ebrei il 54% delle terre, anche se rappresentavano il 30% della popolazione. Il disimpegno della Gran Bretagna dai territori si realizza il 14 maggio 1948, con la proclamazione dello Stato di Israele. Il primo conflitto arabo-israeliano termina nel gennaio del 1949 con i trattati d'armistizio di Rodi. Da allora, come sappiamo, all'escalation della violenza si sono alternate speranze di pace, dalla crisi di Suez del 1956 all'occupazione dei territori del 1967, dalla guerra del Kippur alla firma degli accordi tra Begin e Sadat a Camp David del 1978, dalla storica stretta di mano tra Yasser Arafat e Yitzhak Rabin all'uccisione di Rabin del 4 novembre 95. Oggi torniamo a occuparci di questa tormentata area del Medio Oriente in compagnia di Luisa Morgantini, vicepresidente del Parlamento europeo, che da anni dedica i suoi sforzi, le sue energie e la sua attività proprio per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica su quel che accade veramente in quelle terre. Buonasera, onorevole Morgantini, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera e molte grazie a voi. Anche quest'anno lei ha organizzato per la fine dell'anno appunto un viaggio nei territori occupati, viaggio che ha coinciso appunto con l'esplodere della nuova tragica spirale di violenza nella striscia di Gaza. Nei giorni scorsi, insieme all'Associazione per la Pace, lei ha presentato a Roma, alla Sala Pintora allo Scalo di San Lorenzo, il documentario di Claudio Cutarelli, Frammenti di un viaggio in Palestina e Israele, che è quanto mai attuale. Infatti molto significativo questo passaggio del documentario, in cui un gruppo di palestinesi e israeliani hanno fondato un'associazione convinti che non vi sia alternativa alla ricerca di una soluzione pacifica e negoziata del conflitto in Medio Oriente. Israeliani e palestinesi si incontrano regolarmente negli ultimi 3 anni. Gli israeliani sono ex soldati, hanno prestato servizio all'occupazione. I palestinesi sono quelli che combattevano contro quegli stessi soldati. Queste stesse persone si incontrano per parlare insieme di pace, senza armi. Ora, per esempio, quando gli israeliani vengono a farci visita, si sentono più sicuri senza armi e senza le loro unità dell'esercito. Ed è questa la nuova rivoluzione. Stiamo combattendo insieme in modo non violento contro il nostro nemico comune, l'occupazione. I was among the people who started Combatants for Peace. Sono stato tra i primi che hanno preso parte ai combattenti per la pace. Sono quasi 3 anni che questo gruppo lavora per riunire persone di entrambi gli schieramenti. Cerchiamo di farlo senza utilizzare la violenza e usando modi alternativi per resistere all'occupazione. Circa un anno fa, non lontano da qui, alle 9:30 del mattino, dopo che aveva finito i suoi esami di matematica ed era molto contenta perché aveva ottenuto un buon voto, un eroe, un soldato o un criminale israeliano le ha sparato un proiettile di gomma alla testa. Aveva 10 anni, Abir. Le hanno sparato e l'hanno uccisa. È morta dopo 3 giorni in un ospedale israeliano, per niente. Non era una combattente, non si occupava della questione palestinese. Era una bambina. Gli israeliani però, quelli che uccidono guardando ai nostri bambini come sospetti, come nemici, come bersagli, per questo dal 2000 i soldati israeliani hanno ucciso più di 1000 bambini e nessun soldato è mai comparso davanti alla giustizia. Durante il mio servizio militare ho perso mia sorella in un attacco suicida a Gerusalemme. Quando ho visto che il mio paese, la società intorno a me non aveva niente da offrirmi se non rabbia e vendetta, ho deciso che dovevo cercare un partner altrove. In certi momenti ho sentito che mia figlia fosse anche figlia loro. Molti combattenti per la pace israeliani sono rimasti con me in ospedale giorno e notte. Qualcuno di loro voleva vendicarsi contro i soldati israeliani. Questa tragedia ci ha reso più forti. Al posto dell'anima e del sangue di Abir, ora abbiamo costruito un ponte per il dialogo tra i due popoli e abbiamo avuto nuovi membri per i combattenti per la pace, in particolare da parte israeliana. Nelle attività che portiamo avanti ogni giorno, stiamo dimostrando a tutti, e specialmente a noi stessi, che c'è un interlocutore dall'altra parte e che è sufficiente raggiungerlo ed entrarci in contatto con dignità e con rispetto. E allora il dialogo è possibile, l'attivismo è possibile e la resistenza è possibile. Onorevole Morgantini, prima di tutto, come è andato il viaggio in Palestina? Siete stati i testimoni diretti della nuova drammatica escalation di violenza nella striscia di Gaza? Una cosa molto angosciosa in realtà, vedere anche la disperazione ma anche l'impotenza dei palestinesi che vivono nella Cisgiordania, che non subiscono certamente l'assedio e neanche i bombardamenti, ma sono ancora sotto occupazione militare israeliana, per cui sono costretti e umiliati ai checkpoint che sono non tra Israele e i territori occupati del 67, ma sono all'interno della Palestina. Abbiamo visto la crescita smisurata delle colonie israeliane all'interno dei territori occupati, quelli che dovrebbero essere lo Stato appunto della Palestina. E abbiamo visto bambini che non potevano andare a scuola perché i coloni nella zona di Tuani, che è una zona sud di Hebron, vengono attaccati da coloni fanatici che gli impediscono di andare a scuola. Abbiamo visto l'attacco che è stato fatto anche a internazionali che accompagnano questi bambini a scuola. Quindi una situazione veramente tragica e soprattutto un senso veramente di impotenza e di abbandono da parte dei palestinesi del West Bank, e vedere le immagini che mostra per esempio la televisione di Al Jazeera ma anche l'Arabia, le immagini di quello che c'è da Gaza è ovviamente ancora più drammatico. Siamo stati a manifestazioni dei pacifisti israeliani a Jaffa e anche a Tel Aviv, pacifisti che dicono: noi ci rifiutiamo di essere nemici, però bisogna che cessi l'occupazione militare, no a questa aggressione israeliana sulla popolazione di Gaza, peraltro già stremata da un assedio che dura da ormai 2 anni. E che ha visto la popolazione palestinese di Gaza non avere luce, una punizione collettiva fatta perché evidentemente ci sono azioni di gruppi estremisti di Hamas che hanno tirato e continuano a tirare rocket sulla popolazione civile israeliana, cosa assolutamente da condannare, certo. Non solo da condannare, ma io la considero un crimine, certo. Cercare di colpire la popolazione israeliana. però questo non può giustificare assolutamente le distruzioni di infrastrutture, l'uccisione di civili. Vedere questi corpi di bambini distrutti, spezzati, pensare semplicemente al bombardamento della scuola delle Nazioni Unite dove sono morte 45 persone, con il rappresentante dell'UNRWA che dice molto apertamente non è vero, non c'erano militanti dentro quella scuola, io mi sono collegato con il comando militare israeliano dicendogli e comunicandogli esattamente l'ubicazione della scuola e anche che lì dentro c'era soltanto gente che era scappata, che era evacuata dalle case vicine e era state distrutte, quindi è un orrore, penso che noi dobbiamo assolutamente fare qualcosa, chiedere immediatamente, come abbiamo chiesto anche come Unione Europea, il cessate il fuoco. Che reazioni ha colto nelle persone, una cinquantina se non ricordo male, che l'hanno accompagnata nel suo viaggio? Beh, è stato molto sconvolgente per loro, è stato molto sconvolgente perché è molto diverso leggere e poi invece vedere con i propri occhi che cosa significa appunto il muro che è stato costruito, che è un muro considerato illegale ovviamente dalla Corte di Giustizia Internazionale, ma che continua ad essere costruito. Cosa significa avere un muro davanti a casa che ti chiude ogni visione, ma soprattutto cosa vuol dire per i contadini, perché siamo andati nei villaggi contadini in cui il muro praticamente toglie ai villaggi il 60% di territorio. Quindi vedere un contadino che soffre perché non può più lavorare la sua terra, vedere la sua terra che è dall'altra parte del muro e quindi annessa di Israele, beh, una grande sofferenza. Quindi, ma è stato anche, devo dire, come nel filmato che le ricordava, frammenti, anche frammenti di speranza molto importanti, perché vedere per esempio soldati israeliani che avevano combattuto, che hanno anche sparato, o palestinesi che sono stati in carcere, che anche loro avevano creduto nella lotta militare, vederli insieme anche oggi, incontrarli insieme che dicevano basta con la violenza, ciascuno ha diritto a un proprio Stato, beh, queste sono le speranze, sono l'umanità che cresce, quindi è stato anche molto positivo vedere non solo gli aspetti della violenza, dell'occupazione militare, ma anche vedere le forze che tra palestinesi e israeliani si stanno formando, perché appunto cessi questo conflitto che, come lei ricordava, è un conflitto che ormai dura da più di 60 anni e che non vede fine se non che la comunità internazionale possa davvero intervenire e anche per esempio per cessare il fuoco anche imporre una forza internazionale che difenda la popolazione civile. Grazie onorevole Morgantini. Grazie molto a voi. La storia e la memoria. Ben ritrovati. Il radiodocumentario che vi proponiamo questa sera racconta le incredibili vicende dell'equipaggio del Dresden, l'unica nave tedesca sopravvissuta durante la battaglia delle Falkland all'inizio della Prima Guerra Mondiale. Ci troviamo nelle burrascose coste del Cile. Qui un numero infinito di navi è sparito senza lasciare traccia, ma una particolare imbarcazione è diventata una leggenda. Sua Maestà il Dresden. Si tratta dell'incrociatore tedesco più ricercato durante la Prima Guerra Mondiale. La nuova marina, orgoglio e vanto del Kaiser, aspira a porre l'impero tedesco come la principale potenza mondiale. In pochissimi anni Guglielmo II è riuscito ad allestire una potente flotta militare. L'Inghilterra, fino ad allora indiscussa dominatrice dei mari, viene allarmata da questa corsa alle armi che nel 1914 culminerà con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Chi dominerà il mondo lo si deciderà in mare aperto. Il Dresden allo scoppio della guerra è al largo delle coste del Sud America. Quest'incrociatore è una delle navi più veloci della flotta tedesca, ma da solo non potrebbe mai resistere a un attacco nemico. 18 settembre 1914. Al Dresden viene dato l'ordine di unirsi alla flotta dell'ammiraglio Graf von Spee nel Pacifico. L'unico problema è come superare gli inglesi. Quando il 27enne Willem Canaris si era offerto volontario per il servizio in marina, non pensava lontanamente a una guerra. Desiderava solo andare in Sud America per migliorare il suo spagnolo e per vedere paesi stranieri. A quell'epoca leggeva le cronache di Darwin e dei suoi viaggi intorno al mondo. Canaris è un avventuriero, ha più lo stile del diplomatico. Questo era il giudizio del suo capitano. Non poteva immaginare che il suo aiutante un giorno sarebbe diventato ammiraglio e anche capo dei servizi segreti tedeschi. La Royal Navy britannica sa che il Dresden è nei paraggi. Ma gli incrociatori da guerra della squadra ai comandi dell'ammiraglio Craddock sono vecchi e non possono competere con il veloce incrociatore tedesco. Poco prima di Capo Horn a Punta Arenas, un porto cileno neutrale, gli inglesi si fermano per fare rifornimento di carbone. Qui immigrati tedeschi e inglesi convivono pacificamente. La guerra sembra molto lontana. Ma appena arrivato, l'ammiraglio Craddock apprende con sgomento che la squadra di von Spee è stata avvistata non molto lontano. Per combattere contro la moderna flotta tedesca ha solo 4 incrociatori, il più vecchio dei quali è fuori uso per un guasto ai motori. Al largo della città costiera cilena di Coronel, il 1 novembre 1914, la torre di vedetta del Good Hope avvista segnali di fumo all'orizzonte. Un'intera squadra tedesca si dirige verso di loro, compreso l'incrociatore Dresden. Sul Dresden vengono azionati tutti i reparti, il fuoco puntato sul bersaglio. Le due flotte sono ormai una di fronte all'altra. Un solo colpo ben assestato potrebbe affondare le navi tedesche. Non ci sarebbe nessuno scampo per gli uomini nelle stanze dei motori. I marinai tedeschi si sono esercitati molte volte, ma è la prima volta che rischiano la vita. Viene dato l'ordine di aprire il fuoco. La battaglia di Coronel dura solo pochi minuti. Il Monmouth viene pesantemente colpito. Il Good Hope, colpito in pieno, affonda. Ma il Glasgow dov'è? È riuscito a scappare, è l'unico ad essersi salvato. Nel buio, la ricerca dei superstiti è senza speranza. Il giovane addetto alle caldaie del Dresden, Christian Stöckler, scrive nel suo diario: è mezzanotte, devo tornare ai motori. Miracolosamente la nostra nave sembra illesa. Molti di noi hanno visto colare a picco la Monmouth. Abbiamo tutti un'espressione sconvolta. Sussurriamo come se ci trovassimo a un funerale. Potremmo esserci stati noi al loro posto. A Londra la notizia ha l'effetto di una bomba. Disastro nel Pacifico, titolano i giornali. Una squadra inglese distrutta, 1700 morti. La ferita di quella battaglia brucia ancora oggi. Professor Andrew Lambert, direttore dell'unità Lowton Naval History. Dopo 100 anni di indiscusso predominio sui mari di tutto il mondo, la Royal Navy aveva perso una battaglia. Due navi erano state affondate con i loro equipaggi. Gli inglesi dovevano vendicarsi per riconquistare il controllo degli oceani. Winston Churchill, allora primo lord dell'ammiragliato, decise di inviare i suoi uomini migliori a compiere la missione. L'ammiragliato disse che aveva bisogno di una settimana per prepararsi. Churchill diede loro 48 ore. La vendetta andava compiuta subito. Ai due più potenti incrociatori inglesi viene affidato il compito di mandare la flotta di von Spee in fondo all'oceano. Le due navi sono ormeggiate in secca a Devonport. Winston Churchill è sicuro di poter vendicare l'umiliazione di Cornell con queste navi, che portano i significativi nomi di Inflexible e Invincible. Il 6 dicembre 1914 il porto di Punta Arenas è deserto. Il consolato tedesco resta chiuso tutto il giorno. Il console Stubenrauch ha mandato la propria famiglia in campagna. Il console tedesco aspetta un visitatore segreto, Albert Pagels, un vecchio marinaio tedesco che vive in quella città. Pagels conosce le acque del Cile come il palmo della sua mano. È dal console per avvisare la squadra tedesca del destino che la attende. È giunta infatti la notizia che dei pesanti incrociatori inglesi si sono messi sulle loro tracce. Niente di tutto questo viene minimamente sospettato a bordo del Dresden, l'incrociatore più veloce che procede in testa alla flotta. Ma Wilhelm Canaris non è del tutto tranquillo. Per attraversare l'Atlantico hanno bisogno di altro carburante. Von Spee ordina di fare rifornimento di carbone sulle isole Falkland, cioè sul territorio inglese. L'8 dicembre alle 7 del mattino il destino inizia a compiersi. Le Falkland sono in vista. Le sentinelle inglesi avvistano la flotta tedesca all'orizzonte e danno immediatamente l'allarme. Solo il giorno prima l'Inflexible e l'Invincible sono arrivati a Port Stanley e sono ancora nel porto insieme ad altri 5 incrociatori in attesa di combustibile. Se i tedeschi li attaccassero adesso, le navi inglesi ormeggiate senza difesa non avrebbero molte possibilità di salvezza. I tedeschi si avvicinano rapidamente. A bordo del Gneisenau vedono fumo. All'inizio li prendono per innocui segnali di avvertimento, finché non vedono gli alberi degli incrociatori inglesi. Von Spee ordina di ritirarsi. Gli storici ancora oggi non si spiegano perché l'ammiraglio decise di non attaccare. L'ammiraglio Sturdy ordina di uscire in mare immediatamente, ma non è un'impresa facile. Le caldaie hanno troppa poca pressione. Le enormi dimensioni dei due incrociatori costituiscono anche il loro limite. Gli addetti alle caldaie danno la massima velocità, alimentando i motori da 40.000 cavalli. Infine, l'ammiraglio Sturdy ordina di dare inizio all'inseguimento. I due giganti sono in testa alla flotta. Una volta in mare, non solo si rivelano più veloci delle navi tedesche, ma hanno anche un altro vantaggio strategico: i cannoni di precisione a lunga gittata. Gli inglesi sono in grado di aprire il fuoco prima di trovarsi alla portata dell'artiglieria tedesca. A distanza di 14 chilometri, gli inglesi aprono il fuoco. La nave ammiraglia, la Scharnhorst, è a fuoco. Gneisenau e lo Scharnhorst affondano. Gli inglesi si danno all'inseguimento degli incrociatori in fuga Nürnberg, Leipzig e Dresden. La vendetta di Coronel deve essere completa. Mentre il Glasgow si concentra sul già colpito Leipzig, il Dresden ha la possibilità di scappare. Wilhelm Canaris sa che la loro unica possibilità di salvezza è la velocità. All'improvviso sul mare appare la nebbia. È una fortuna, perché così si rendono invisibili agli inseguitori. Canaris si chiede per quanto i motori possono sostenere quella velocità diabolica. In sole 2 ore hanno consumato la quantità di carbone che di solito bruciano in un giorno. Basterà il carburante fino alla costa? E poi dove andranno? Sono solo loro gli unici sopravvissuti all'inferno? Canaris deve prendere una decisione. Devono cercare di raggiungere il neutrale Cile. Punta Arenas, l'unico posto in cui sarà possibile far rifornimento e riuscire a sfuggire agli inseguitori. Qui i tedeschi hanno la definitiva conferma di essere gli unici sopravvissuti alla battaglia delle Falkland. Tutti gli altri incrociatori della flotta sono andati perduti, insieme a 2.200 compagni. Hanno bisogno di un luogo nel quale nascondersi, e in fretta. Canaris valuta il consiglio del vecchio marinaio Albert Pagels. Bisogna spingersi all'interno di una remota insenatura, almeno fino a quando non arriverà il prossimo carico di carbone. Il Dresden lascia il porto appena in tempo. Meno di 3 ore dopo, le navi inglesi arrivano a Punta Arenas, ma i tedeschi sono fuggiti e Churchill va su tutte le furie. L'unico incrociatore inglese sopravvissuto al disastro di Coronel, il Glasgow, è alla testa degli inseguitori. Dietro ci sono altre 6 imbarcazioni. Come rinforzi vengono reclutate anche navi giapponesi e australiane. Passeranno al setaccio tutto il sud. Il mattino del 16 dicembre Canaris è di vedetta. Forse hanno trovato il punto che stanno cercando, la via d'accesso al nascondiglio. Il vecchio Pagels a Punta Arenas gli ha lasciato le seguenti indicazioni. Avanzate tenendovi il più vicino possibile al ghiacciaio, è l'unico punto in cui il canale è abbastanza profondo, ma attenzione alle rocce subacquee. È come attraversare un campo minato. Canaris segue pedissequamente le direttive di Pagels. Dopo circa 400 metri nel canale diventa improvvisamente difficile procedere. Fate attenzione, l'ingresso nella baia è molto difficile da avvistare. Un nascondiglio ideale. Fidatevi di me, il canale è abbastanza profondo per il Dresden, anche se non sembra. Nessuno vi troverà lì. Pagels ha rassicurato Canaris con quelle parole. Lentamente. La baia è infatti circondata dalle montagne. Motori, ferma! Il marinaio ha ragione. Dal mare sono completamente invisibili. La storia e la memoria. Continua il radiodocumentario sull'incredibile storia del Dresden, l'unico incrociatore tedesco a sopravvivere alla furia inglese durante la battaglia delle Falkland. La nave del Kaiser è riuscita a seminare le imbarcazioni inglesi ed ha finalmente trovato un rifugio in cui potersi nascondere. I motori del Dresden hanno percorso migliaia di chilometri a tutta velocità in mare aperto ed ora hanno bisogno di riposo e manutenzione. Il pericolo per i militari tedeschi sembra scampato, ma il comandante Canaris non si illude. Gli approvvigionamenti sono insufficienti e l'equipaggio deve arrangiarsi per sopravvivere alla natura selvaggia. Sono tutti in attesa che Pagels, il loro contatto a Punta Arenas, porti cibo, munizioni e carburante. Da tutte le parti la spedizione inglese setaccia il labirinto roccioso della costa della Patagonia. Baia dopo baia si cerca il Dresden. ma le centinaia di insenature perlustrate conducono al nulla e gli stretti canali, rocciosi e poco profondi, sono molto pericolosi. La nave ammiraglia della flotta inglese si è già arenata e poco dopo un secondo incrociatore riporta dei gravi danni allo scafo e deve essere tirato in secca. Le riparazioni richiedono tempo e la cosa viene segnalata all'ammiragliato a Londra. La caccia a una singola nave sta impegnando un'intera flotta. Professor Andrew Lambert, direttore dell'unità Lowton Naval History. Con il passare delle settimane, gli inglesi non riuscivano a trovare il Dresden e Churchill era furioso. Avevano troppe navi impegnate intorno a Capo Horn, alla ricerca dell'ultima nave tedesca. Churchill mise addirittura un premio in palio per chi avesse affondato quella nave. 5.000 sterline in oro per chiunque trovi il nascondiglio della nave fuggiasca. Tutta la Patagonia inizia le ricerche. Ciascuno ha una sua teoria su dove trovare il Dresden, ma finora nessuno è riuscito a scoprire dove è nascosto. I marinai del Dresden si chiedono cos'è accaduto ai rifornimenti. Dov'è il carbone? Nel nascondiglio Canaris aspetta disperatamente Pagels. Ha ormai imparato il suo libro di Darwin a memoria. Pagels gli aveva promesso solennemente di guidare una nave di rifornimenti nell'insenatura segreta. Ma non è ancora arrivato. Intanto è arrivato il Natale, nessuno se la sente di festeggiare in questa terra solitaria e desolata. Ma Canaris incoraggia l'equipaggio a fare lo stesso delle decorazioni natalizie. E li sprona anche a scrivere ai propri familiari, anche se non mandano o ricevono posta ormai da 6 mesi. Tuttavia alcuni scrivono alle loro case, alle quali forse non faranno mai più ritorno. Qualche marinaio scende a terra per trovare fiori per le decorazioni. Qui Natale cade d'estate e tutto intorno è verde. È un mondo del tutto diverso per quegli uomini. Christian Stöckler ha trovato un rifugio nel bunker del carbone ormai vuoto, nel quale riesce ad avere un po' di privacy. Per la 100ª volta rilegge l'ultima lettera dei suoi genitori, che ormai conosce a memoria. Mio caro ragazzo, speriamo che tu stia bene. Caro il mio Christian, dici se sulla nave ti manca qualcosa, ti manderemo quello che possiamo. Ovunque ti trovi, cerca di rubare il più possibile, ma solo con gli occhi. Hai l'opportunità di vedere così tante cose in quei paesi lontani. Imparerai moltissimo. E il ricordo di questo viaggio ti accompagnerà per il resto della tua vita. Natale è il tempo delle sorprese. Un giorno, mentre Canaris è di guardia nella speranza di avvistare la tanto attesa nave di rifornimento, all'entrata della baia appare una nave molto sospetta. La piccola nave a 2 alberi avanza con velocità sospetta. Il Dresden è stato scoperto. Il suo nascondiglio non è più sicuro. È solo questione di tempo prima che la Royal Navy si affacci all'orizzonte. Devono fuggire immediatamente. Devono dirigersi a nord-ovest. Ancora oggi questa regione è quasi inesplorata. Nessuna nave di solito si avventura in queste acque. Le carte sono troppo approssimative e le acque troppo pericolose. Ma una nave da rifornimento tedesca quasi 100 anni fa corse il rischio, quella pilotata da Albert Pagels. Il loro viaggio deve aver seguito delle rotte segrete attraverso stretti passaggi, insenature piene di scogli e canali non segnati. Una vera impresa nautica. Ma anche le spie del console inglese avevano individuato il nuovo nascondiglio del Dresden. Charles Millward riportò le coordinate a Londra, ma l'ammiraglio non gli credette, perché sulle loro carte, in quel punto, veniva indicata la presenza di terra, non di una baia. Professor Andrew Lambert, direttore dell'unità Lowton Naval History. Gli inglesi erano scettici anche quando ricevettero le coordinate della posizione del Dresden, perché secondo i loro calcoli in quel punto c'era una montagna. Quell'area era stata segnata ai tempi della Beagle di Darwin e le mappe non erano state più aggiornate. Il Dresden era disperso in uno spazio enorme, non segnato sulle carte. L'incrociatore tedesco era ancorato tra 2 isole e nessuno poteva vederlo. Era un posto eccezionale nel quale nascondersi. È una baia chiusa abbastanza larga da contenere un'intera flotta. Gli uomini rimangono a bordo del Dresden in quel posto sperduto per 2 mesi, senza illuminazione e riscaldamento e solo molluschi da mangiare. Ne hanno abbastanza. L'arrivo di Albert Pagels è come una liberazione per loro. Il marinaio ha fatto l'impossibile, è riuscito a condurre un enorme mercantile sotto il naso delle navi inglesi, dritto nel nascondiglio. Gli uomini del Dresden sembrano trasformati. Hanno di nuovo dei contatti con il mondo esterno. La guerra è forse già finita? Gerhard Pagels, figlio di Albert Pagels. Il Dresden aspettava disperatamente le 1500 tonnellate di carbone che dovevano arrivare dalla Sierra Cordoba e ovviamente anche le altre provviste. Stavano morendo di fame. Quando mio padre arrivò, tutto l'equipaggio lo accolse con entusiasmo perché aveva portato il carbone e le provviste. Fu molto emozionante. Tutti stavano dando il loro meglio in quella situazione. No, la guerra non è finita, ma con tutte le provviste delle quali hanno bisogno, ora il Dresden può di nuovo riprendere il largo. Levate le ancore, direzione Oceano Pacifico. La sera del 14 febbraio 1915, il Dresden si lascia la Patagonia alle spalle e si avventura in mare aperto. Esce nel Pacifico con le luci abbassate e i motori al minimo. All'improvviso un'ombra inquietante si profila all'orizzonte. A bordo spengono tutte le luci. C'è un incrociatore inglese ancorato al largo. Avanzano. Procedendo il più lentamente possibile, riescono a superare la nave inglese al buio senza essere visti. Sono stati estremamente fortunati e finalmente sono in mare aperto. Gli uomini del Dresden sono così euforici che alla fine rompono il silenzio radio che hanno mantenuto per mesi. Nella loro gioia si mettono in contatto con Berlino per richiedere un carico di carbone alle coordinate 37 gradi sud e 80 ovest in un giorno stabilito. È un errore fatale perché gli inglesi intercettano la comunicazione. Professor Andrew Lambert, direttore dell'unità Lowton Naval History. Il Dresden aveva disperatamente bisogno di altro carbone, per cui i tedeschi presero il libro dei segnali e chiamarono. Gli inglesi intercettarono il messaggio e, poiché il segnale era molto nitido, mandarono anche un incrociatore alle sue costole, il Cat. L'8 marzo il Dresden raggiunge la posizione accordata per l'appuntamento. La vedetta non vede nessuna nave da carico di carbone. Invece dall'allarme, nave da guerra a tre alberi che si avvicina rapidamente. È l'incrociatore inglese leggero, Kent. Contro l'artiglieria del Kent il Dresden non ha nessuna speranza. L'unica sua possibilità di salvezza è nella potenza dei suoi motori che vengono spinti al massimo. Quella fuga è una questione di vita o di morte. Anche sul Kent i motori viaggiano a tutta velocità. I marinai inglesi bruciano tutto quello che riescono a trovare. La sala motori segna 24 nodi e mezzo di velocità, ma non è ancora abbastanza. Il Dresden riesce a fuggire, ma a quale prezzo? L'elevata velocità ha danneggiato le turbine. Alla fine della corsa i tedeschi raggiungono l'isola di Robinson Crusoe. Su questa remota isola cilena, il Dresden getta finalmente le ancore. Il comandante decide di arrendersi. Non hanno più carbone, hanno perso dei pezzi e i motori sono rovinati. Ma Canaris fa un ultimo tentativo. L'equipaggio è distrutto. Gli uomini a bordo vogliono mettersi sotto la protezione del governo cileno e venire internati. Cos'ha in serbo il destino per loro? Il comandante non può fare nulla. A parte chi è di guardia, tutti possono scendere a terra. Ora dopo ora attendono la nave da guerra cilena che hanno avvistato e sotto la quale vogliono cercare protezione. Ma i giorni passano. I marinai sono ancorati sull'isola e non accade niente. Finché il mattino del 14 marzo all'orizzonte appaiono delle colonne di fumo nero. Il comandante ordina alla guardia e agli ufficiali di andare immediatamente sul ponte. I cannoni vengono abbassati in direzione della costa. Vogliono fare una buona impressione ai cileni. Ma non sono i cileni. Tre incrociatori inglesi si dirigono a tutta velocità verso di loro. In testa c'è il Glasgow, che ha un conto in sospeso con il Dresden. È il giorno della resa dei conti. Il fatto che il Dresden si trovi in acque neutrali e con i cannoni abbassati non ha alcuna importanza per gli inglesi. Coronel deve essere vendicata e l'umiliazione cancellata. Quelli che non vengono uccisi dai cannoneggiamenti cercano di raggiungere la salvezza a nuoto. Mentre i sopravvissuti raggiungono la spiaggia, il Dresden, l'ultimo incrociatore della flotta del Kaiser, affonda negli abissi del Pacifico. Missione compiuta, comunicano al Comando Supremo a Londra. Ancora il professor Andrew Lambert. Prima dell'affondamento, il Dresden era una leggenda. Ed era imperativo per Churchill annientarlo. Quando venne affondato vicino all'isola di Juan Fernandez, l'Inghilterra ritornò ad essere la padrona indiscussa degli oceani. L'equipaggio superstite del Dresden viene confinato sull'isola di Chiriquinha, vicino alla costa cilena. Nella lontana Europa, dall'altra parte del mondo, la guerra è arrivata a un punto morto, ma ancora non si parla di pace. Uno dei marinai non riesce ad aspettare in prigione. La notte del 3 agosto 1915, Willem Canaris decide di evadere. L'uomo deve passare oltre le guardie cilene per raggiungere la spiaggia. Da lì il continente non è lontano. Canaris è deciso a tornare a tutti i costi nella sua patria. Travestito da viaggiatore cileno e con solo una cartina approssimativa del Sud America, Canaris attraversa il continente. A Buenos Aires, sotto falso nome, si imbarca su un mercantile olandese. Nell'ottobre 1915, dopo aver attraversato il Portogallo e l'Inghilterra, arriva sano e salvo ad Amburgo. La Germania sta per perdere la guerra. Ma grazie al suo talento, Canaris ascende ai vertici del potere, diventando ammiraglio del servizio segreto della Marina. Nel 1930 diventa il capo del controspionaggio, ma durante la Seconda Guerra Mondiale prende sempre maggiori distanze dalla dittatura nazista e si unisce in segreto alla resistenza tedesca. Nel 1945 viene scoperto e viene giustiziato nel campo di concentramento di Flossenbürg. E cosa ne è stato dell'equipaggio del Dresden che è rimasto nel campo di internamento di Chirichigna? Sull'isola devono provvedere ai loro bisogni. I marinai si trasformano in contadini, allevatori di polli e artigiani. I loro modellini del Dresden iniziano ad essere molto richiesti sulla terraferma. Christian, il giovane addetto alle caldaie, diventa un artigiano del metallo. In Germania vengono tutti dimenticati. Solo un anno dopo la fine della guerra viene concesso loro di tornare a casa. Ma molti preferiscono restare in Cile, dove la loro nave giace ancora in fondo al Pacifico. Prima di chiudere, vi segnaliamo che la versione integrale del documentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel domani alle 17. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Daniele Casagrande. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.